Ciao a tutti. Ciao a tutti. Oggi faremo la storia di Cappuccetto Rosso, che vi faremo vedere. Dopo quella di Cappuccetto Rosso ci saranno i tre porcellini. Era un tranquillo pomeriggio di autunno nel paese di quella bambina che tutti chiamavano Cappuccetto Rosso. Ma perché questa bambina si chiamava Cappuccetto Rosso? Forse perché portava un cappuccetto rosso? Sì. Forse perché era piccola ed era molto assomigliante alla protagonista della storia di Cappuccetto Rosso? Sì. Forse perché aveva una mamma che aveva una mamma e quindi aveva una nonna che abitava vicino al bosco? Sì. No. Come sì. No? Sì, certo che era anche per quello. C'era tutta una serie di coincidenze che facevano sì che Cappuccetto Rosso fosse molto simile al Cappuccetto Rosso della storia, quella del lupo, no? Cappuccetto Rosso era molto carino, aveva dei capelli ricci, biondini, e aveva fra i 10 e gli 11 anni. Era alla fine delle scuole elementari. Questa bambina ci teneva molto alla salute della sua casa, soprattutto alla salute della sua casa, che notoriamente ha bisogno anche di cure, no? E della sua mammina. La sua mammina era gentile e aveva questa abitudine, per tagliarla breve, di andare tutti i pomeriggi a trovare la nonna di Cappuccetto per prendersi un tè con i biscotti, molto all'inglese, no? Quindi da qui possiamo capire che Cappuccetto Rosso era brava. Ma non era brava, ragazzi, era inglese, era, no? Perché prendeva il tè con i biscotti alle 4. Un pomeriggio però, quel pomeriggio di cui parlavamo all'inizio, dove il vento soffiava e faceva così, dove le temperature erano autunnali fuori e probabilmente pioveva anche, la mamma chiese a Cappuccetto un favore. Secondo voi cosa chiese la mamma a Cappuccetto quel pomeriggio? che deve portare la merenda alla nonna. Bravi ragazzi, allora la mamma chiede a Cappuccetto, che la chiamavo così, col soprannome. Cappuccetto, oggi pomeriggio non posso andare dalla nonna perché devo andare in posta a spedire una raccomandata molto urgente. Sì? Allora, la raccomandata riguardava la richiesta del reddito di cittadinanza, no? La mamma, in seguito a una crisi, aveva perso il lavoro e adesso stava chiedendo, questo servizio di welfare attraverso una raccomandata in posta, no? E allora non poteva andare quel pomeriggio dalla nonnina di Cappuccetto. E quindi chiede a Cappuccetto: Cappuccetto, questo pomeriggio dovresti andarci te. Lo so che sei piccola, lo so che là fuori il mondo è pericoloso, ma come facciamo? Non potrà mica rimanere senza merenda la nonna, che oltretutto non sta molto bene. È di questi tempi. È anche da tenere sott'occhio perché la nonna ha una temperatura che si aggira sui 37 gradi e mezzo, ha la tosse secca ed è spossata, quindi bisogna verificarne le condizioni. Stai attenta però, Cappuccetto, che là fuori c'è il coronavirus. Un virus molto molesto, che forse ai bambini non fa tanto male, ma che i bambini molto facilmente trasmettono ai propri nonni. Allora, Cappuccetto, per non lasciar solo la nonna, che forse però c'era già questo coronavirus, quindi non sarà il problema di prenderlo da te, Cappuccetto, devi portargli una merenda ben bandita. Cosa portiamo alla nonna di merenda? Ok. Una fetta al latte, un Actimel e anche Una torta. Perfetto, una torta di quelle fatte in casa, E dei quella. cracker. E dei crackers anche, ok. E le mettiamo tutte dentro un cesto di paglia. Dentro un cesto di paglia, allora mette tutte queste cose, Cappuccetto, e dice alla mamma: Non ti preoccupare, mamma. Anzi, lo dice con una voce più da bambina. Non ti preoccupare, mamma. Vai pure alla posta a spedire la tua raccomandata per chiedere il reddito di cittadinanza. Certo, certo, grazie Cappuccetto. Io vado, andrò. E quindi sono sicuro che tu ti comporterai bene. Ma stai attento, stai lontano dal bosco. Il bosco era un noto posto di appuntamenti dove il coronavirus girava più facilmente che in altri posti. Cappuccetto disse: sì, mamma, figurati se passa dal bosco per arrivare dalla nonna, quando è più, molto più veloce la tangenziale. E allora Cappuccetto se ne va, si salutano e incomincia così l'allegra passeggiata di Cappuccetto, che poi non era così allegra perché il giorno era ventoso, tirava questo vento qui che faceva più avvicinava, ma fortunatamente Cappuccetto fortunatamente ragazzi Cappuccetto aveva il cappuccetto che la proteggeva dalle goccioline di pioggia. È la pioggia. La pioggia, esatto. Plic plic, pioveva la pioggia, ma c'aveva il cappuccetto. Quindi il cappuccetto parte, se ne va via di casa, con la merenda, con tutto, e prende la tangenziale per arrivare velocemente da casa della nonna. Ma costeggiando il bosco, ogni passo che faceva, il cappuccetto era irresistibilmente attratta da questo luogo, tanto pericoloso quanto bello, il bosco. Dove ci si poteva andare ad imboscare, dove c'erano tantissimi fiori, tantissimi frutti, e c'era anche dell'acqua. No, però voi siete veramente degli sporcaccioni, ragazzi. Adesso ti prendo un bicchiere, Nina, e bevi dal tuo bicchiere, perché non ci si attacca alla stessa bottiglia. Ricordatevi bene, bambini, non si beve attaccandosi dalla stessa bottiglia. Insomma, Cappuccetto incomincia ad andare in direzione della casa della nonna. È irresistibilmente attratto. Guardate l'effetto della pioggia. Così è molto più verosimile. Cappuccetto va verso la casa della nonna, viene attratto irresistibilmente dal bosco e a un certo punto cosa fa? Entra nel bosco, contravvenendo alle indicazioni della mamma. Si fanno queste cose? No. Cioè, è corretto andare in giro, la mamma ti dice una cosa e te fa il contrario? No. Ma Cappuccetto quel giorno, per vuoi per curiosità, vuoi per spirito d'avventura, lo fece. Qui c'è da bere, Nina, grazie. Entrò dentro al bosco e il bosco si presentava subito come un posto meraviglioso, dove c'erano mele, c'erano pesche ed incredibilmente c'erano tutti questi frutti buonissimi a novembre, fuori stagione, ma quello era il bosco incantato di Cappuccetto Rosso, per cui c'era anche l'uva assieme alle pesche, c'erano le fragole, le ciliegie, le more, i frutti di bosco, tutte assieme, nello stesso momento, nello stesso periodo, nonostante la giornata fosse una giornata piovigginante e ventosa. Come faceva questo vento? Una volta nel bosco, Cappuccetto, mentre osservava dei fiori molto carini, incontrò una persona strana che continuava a tossire ed era raffreddata. Così faceva, no? Come faceva la ragazza a tossire? Cappuccetto si gira e dice: ma signore, ma perché non porta la mascherina? E il signore rispose: Cappuccetto, ti devi fare gli affari tuoi, hai capito? Non ce l'ho perché non si trovano le mascherine. Le sto aspettando un pacco dalla Germania, ma non mi arriva. E Cappuccetto dice: ah, povero signore, mi spiace per lei, mi spiace, ma se è così, io non posso starle vicino. Ma come non posso starle vicino? Io sono assolutamente una brava persona e non ho assolutamente coronavirus, quindi devi stare tranquilla e raccontarmi tranquillamente cosa stai facendo. Cosa sto facendo? Intanto sto osservando una bambina che si sta stropicciando tutta la maglia. Poi sto osservando questi fiori molto belli. E poi dovrei andare anche a casa della nonna, che come ben sai... È una pasticciona. È una pasticciona. No. Mi vuole fare le torte per terra. Come ben sai, abita in fondo al bosco, qui vicino. E vuole fare le torte per terra. In una, ca- in una, ca- carne per in una casetta singola. Singolare. Sì. Singola. Senza vicini, senza niente. Con un bel cortile, un'aia e delle galline anche nell'aia, vero? Che fanno un uovo al giorno. No. Ne fanno 12. 12 di uova al giorno, una stessa gallina. Allora, ha 12 galline che fanno un uovo al giorno e 12 per 1 fa? 3, 5. 12 fa, non 3, 5. Ragazzi. Il lupo... No, è la casa della mia mamma e della mia nonna a forma di albero. Oh, ma che bello, una casa a forma di albero, incredibile, a forma di quercia. Quindi il lupo dice, oh, molto interessante, interessante... Continuava a tossire intanto. Interessante, quasi vado a farci un giro adesso, Cappuccetto Rosso. Cappuccetto dice a questo signore qua che in realtà era il lupo col coronavirus. Lupo, vai a fare un giro dove? Non sei invitato alla merenda a casa... di mia nonna che ho portato, che c'è dentro qui a cosa, al cestello. Te ne stai tranquillo e te ne vai da un'altra parte. E il lupo risponde, sì, va bene, Cappuccetto, vado sicuramente da un'altra parte. E invece il lupo dove va? A casa sua. A sua di chi? Di della nonna. Della nonna, non a casa di Cappuccetto. Anche se poteva essere un bel diversivo che andava a casa di Cappuccetto, dove non c'era nessuno e poteva rubare un po' tutto. E invece va a casa della nonna. Arriva presto perché il lupo va più veloce di Cappuccetto Rosso, che non è veloce. E cosa fa? Bussa, no? Sì. Come ci bussa? Toc toc, sono la tua bambina, Cappuccetto Rosso, mi apri? La nonna risponde, uè, non ho tanta voglia di alzarmi dal letto perché non sto tanto bene, però ti apro. E Cappuccetto, il lupo quindi entra, no? Si avvicina alla nonna e la nonna cosa gli dice? Gli dice chiaramente, Cappuccetto, dovresti stare a 1,5 metri di distanza, capito? E il Cappuccetto dice, che poi sarebbe il lupo, dice, va bene nonna, starò a 1,5 metri di distanza, così più difficilmente mi riconoscerai. Perché il lupo nel frattempo si era anche travestito da Cappuccetto Rosso. Si era messo un cappuccetto rosso e si era messa anche una sciarpa davanti alla bocca, no? Di modo che non fosse distinguibile, soprattutto da una distanza media. E la nonna, lo sappiamo, era anche un po' accecata. E Cappuccetto, lupo, a questo punto dice, nonna, non hai niente da dirmi? E la nonna cosa gli dice? Cappuccetto, che orecchie grandi che hai oggi. E il lupo gli dice, per sentirti meglio, nonnina mia. Meglio, nonnina mia. Poi la nonna dice, Cappuccetto, che occhi grandi che hai. Per guardarmi meglio. Meglio, mamma. Nonnina mia. Cappuccetto, non hai la mascherina oggi, gli dice. E lui cosa gli risponde? Per mangiarti meglio. Per tossire meglio, nonnina tossire mia. Meglio. E tossisce. E cosa succede? Che gli dà il coronavirus. Esatto. E la nonna come fa a questo punto? Che ce l'aveva già e ne prende ancora. Sta ancora peggio, sta. E il lupo, questo incosciente... socialmente inadeguato, prende e se ne va via, se ne va. Ma perché poi il lupo va dalla nonna, prova a entrare in casa e poi se ne va via? Perché nel frattempo, mentre c'è questa discussione, il lupo sgraffigna l'argenteria della nonna. E la nonna non se ne accorge ovviamente. Dopo un po' il lupo se ne va. Arriva Cappuccetto Rosso e Cappuccetto Rosso bussa e dice, come fa a bussare intanto? Toc Tac, sono la tua bambina. Cappuccetto rosso. E la nonna, Cappuccetto, ancora, ma sei appena stata qui. E Cappuccetto dice, ma come? Appena stata qui, vengo dal bosco. È impossibile. A meno che non hai visto poco fa un impostore. E la nonna risponde, un impostore? Può anche essere. Fatto sta che assomigliava molto a te. Tant'è che portavo un cappuccetto rosso e avevo una sciarpa davanti alla bocca. Però quando si è avvicinata mi sono accorto che non aveva la mascherina. Cappuccetto entra, vede che la nonna tossisce ancora di più e dice, nonna, forse è il caso che cambiamo il numero verde della regione. E allora la nonna risponde, ma cosa vuoi che sia Cappuccetto, vero? Sarà solo il solito raffreddore mischiato un po' a influenza. E la Cappuccetto dice, nonna, fidati, forse è meglio che chiamiamo il numero verde della regione. E la nonna risponde, Cappuccetto, se proprio insisti, telefona. E Cappuccetto a quel punto telefona. Come fa il telefono a suonare? Questo succede dall'altra parte della cornetta, dove un operatore della regione risponde e dice, pronto, chi è? E Cappuccetto dice, sono Cappuccetto Rosso, sono qua con la mia nonna. Cappuccetto Rosso, dice? Come quella della storia? E lei cosa risponde? Sì. Sicuro, sono proprio lei. E l'operatore dice, che piacere parlare con lei. Qual è il problema, signora Cappuccetto? E Cappuccetto dice, uè, signora. Anzi, con la voce di Cappuccetto, uè, signore, c'è la mia nonnina che ha un po' di febbre, la tosse secca ed è affannata. Cosa posso fare? L'operatore dice, uè, cosa vuoi fare? Prendi un bel tè con i biscotti, e rimani in caldo, e abbi fede che tutto passerà. Intanto, mentre fai tutte queste cose, di anche una preghierina. E loro cosa dicono? Va bene. No, il Cappuccetto dice, uè, io non c'ho il tè con i biscotti, ho portato le Kinder fette al latte. Poi cosa ha portato? Una torta. Una torta. E una torta. E dei cracker. Ad essere precisi, sì. E quindi dice l'operatore, io ho portato queste cose qui, van bene lo stesso? E l'operatore dice, uè, sarebbe meglio che ci sia qualcosa di caldo. Non l'ha sentito quell'audio che gira sui WhatsApp, nei gruppi, dove dice che il virus si ammazza con un po' di roba calda, no? Che è uguale oppure a quell'altro virus dove dicono che il virus si ammazza con una spremuta d'arancia e delle vitamine C, sentiti? E Cappuccetto risponde, sì, ho sentito, ma pensavo che fossero delle puttanate. E l'operatore dice, ma noi non lo sappiamo se lo sono o non lo sono, ma adesso se la tua richiesta è che venga qualcuno, non abbiamo nessuna disposizione. Inoltre, il tampone, come ben sa, non glielo facciamo, perché lei, la sua nonna, per caso cos'è, un politico? Cappuccetto dice, no, non lo è, anche se ha fatto il consigliere una volta nel suo condominio. Allora no, non vale, non è un politico. Cos'è, un calciatore? Puttaniera. No, Cappuccetto dice, no, non è un calciatore, ha 75 anni d'altra parte, non potrebbe nemmeno essere. E l'operatore gli fa, ma allora però potrebbe essere un VIP, no? È conosciuto, ha fatto il Grande Fratello, ha fatto queste cose qui. Cappuccetto dice, no, non ha mai fatto niente di tutto questo, ha lavorato 43 anni in fabbrica, poi è andato in pensione, ed è in pensione da una decina d'anni, pensava di godersela per un altro po', se è possibile. E l'operatore gli dice, va bene, guarda, sono con lei, mi dispiace, ma le consiglio di tenere la situazione sott'occhio e di chiamare semmai fra un paio di giorni. E l'operatore mette giù E Cappuccetto dice: uè, questo imperatore non mi ha neanche salutato. Ha capito che era Cappuccetto Rosso, che comunque potevo anche essere un personaggio famoso io, eh? Però ha valutato di no. Quindi, nonno, adesso noi cosa possiamo fare? E la nonna dice: uè, cosa possiamo fare? A questo punto dovrebbe arrivare qual cacciatore, ma non lo so cosa viene a fare, no? E Cappuccetto dice: uè, potrebbe fare un giro, che così si unisce alla merenda. E proprio in quell'istante si sentì bussare. Come si bussa? Toc! Toc! Chi è? Chi è? Sono il cacciatore! Ciao cacciatore, cosa ci fai da queste parti? Sono venuto per ammazzare il lupo! Il lupo? Quale lupo? Poverino, quello lì? Speriamo che l'abbiano accolto in qualche ospedale perché non stava tanto bene. Se vuole, cacciatore, può venire qua con noi a far la merenda. E così? Cappuccetto Rosso, la nonnina e il cacciatore si ritrovarono lì a condividere un tavolo, stando ognuno a 1,5 metri di distanza, senza mascherine ma comunque con un grande calore, a prendere, a consumare la buonissima merenda che Cappuccetto aveva portato con grande allegria da casa sua. La situazione nei giorni successivi si placò, si calmò e probabilmente il tutto era collegato effettivamente solo a un leggero raffreddore. Anche perché nel villaggio di Cappuccetto Rosso in realtà abitavano poche persone e non erano frequenti casi di contagio da coronavirus. Per cui, alla fine, come nelle migliori storie, cosa fecero tutti? Vissero? Felici e contenti. Ma proprio contenti contenti? Sì. Felici e contenti con la pancia? Piena. Un saluto, ragazzi. Fate un saluto. Ciao. Un saluto, ciao. Adesso dobbiamo fare i 3 porcellini. Sì, dopo i 3 porcellini. Perché? Come perché? Perché?